Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Bruttissima giornata di nuovo in borsa, con cali che vanno dall'8,9% di Francoforte all'8,20% di Parigi, Londra meno 8%, Milano per fortuna fa un po' meglio delle altre, meno 7%, se di questo ci possiamo accontentare. Abbiamo a Milano una raffica di sospensioni per eccesso di ribasso. In questo momento i titoli congelati sono Tenaris, Intesa San Paolo, Bulgari, in giro. Questi titoli stavano perdendo qualcosa come l'11,5%, ma ci sono altri titoli che sono regolarmente contrattati che comunque perdono il 9,5%, come Monte dei Paschi, Unicredito meno 8,56, Eni meno 8,21, Luxottica meno 8%. Insomma, si preannuncia una nuova giornata piuttosto pesante, nera per i mercati finanziari, e d'altronde anche le indicazioni che cominciano ad arrivare da Wall Street non sono migliori. I futures sul Nasdaq e sul Dow Jones indicano un possibile avvio per il mercato azionario americano, con cali per questi indici di circa il 6%. In tutto questo noi naturalmente continueremo ad aggiornarvi su quello che accade di nuovo in borsa quest'oggi. Adesso vi racconto anche un po' i temi che stanno caratterizzando questa seduta. Continuiamo naturalmente a seguire i nostri temi tradizionali, che anche se appunto non facciamo altro da qualche tempo a questa parte che cambiare in corsa anche l'ordine, i temi delle nostre puntate. C'è un po' di apprensione che in qualche maniera è stata, se vogliamo utilizzare questo termine, tranquillizzata in settimana da alcune iniziative per i detentori di polizze vita e obbligazioni legate alla banca americana fallita, Lehman Brothers. Cosa è successo questa settimana? Che per esempio il gruppo Mediolanum ha fatto sapere che di comune intesa con i principali azionisti, di comune intesa per quello che riguarda i principali azionisti appunto della società del risparmio italiana, in sostanza il gruppo ha deciso di farsi carico delle perdite delle polizze Lehman. L'ANIA, l'associazione appunto che raduna e riunisce e rappresenta le compagnie di assicurazione, ha invitato, caldeggiato appunto una serie di iniziative anche da parte degli altri gruppi. L'ABI, l'associazione delle banche italiane, ha fatto sapere che in qualche maniera anche le banche si attiveranno per assistere i portatori diretti di prodotti Lehman, ma in ogni caso ancora regna un po' di confusione, anche perché non tutti sono in grado di sapere, o almeno non tutti i risparmiatori interessati a questa questione ancora hanno ben capito se effettivamente hanno in portafoglio un prodotto indicizzato a questo titolo, quindi a Lehman Brothers. In ogni caso noi stamattina facciamo il punto anche di tutte le notizie che sono state diramate nel corso della settimana con Alessandro Pedone, responsabile ADUC per la tutela del risparmio, oltre che consulente finanziario indipendente. Pedone, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Volevo così un po' anche raccontare quello che sta accadendo in borsa questa mattina. Abbiamo alcuni dati economici negativi che riguardano l'economia appunto del vecchio continente, che hanno contribuito ad accelerare le vendite che già erano partite questa mattina, partite peraltro in Asia. Gli indicatori appunto delle principali economie asiatiche hanno avuto dei ribassi pesantissimi. Il Nikkei a Tokyo meno 9,60%, ma abbiamo visto anche la borsa di Seoul, che per esempio ha registrato la peggior performance dal 1983. Pensate che 13 nazioni dell'est asiatico hanno deciso di creare entro qualche mese un fondo comune del valore di 80 miliardi di dollari per contrastare la crisi finanziaria. E poi stamattina, dicevamo, sono arrivate cattive notizie che riguardano l'economia del vecchio continente. In particolar modo la Gran Bretagna ha fatto sapere che il PIL, il prodotto interno lordo, nel terzo trimestre è in flessione dello 0,5%, quindi arriva la recessione anche nel Regno Unito. Abbiamo avuto indicazioni ancora peggiori per quello che riguarda alcune società. Il settore auto è ormai davvero nella bufera. Peugeot Citroën ha lanciato un classico profit warning, un allarme utili, ma soprattutto ha fatto sapere che probabilmente dovrà interrompere la produzione. No, questa è stata Renault, scusate, che praticamente ha fatto sapere che chiuderà i propri impianti per almeno un paio di settimane per fronteggiare la situazione. Infatti i titoli del settore automobilistico in Francia questa mattina stanno scendendo nella misura del 15-20%. Anche Volvo in Svezia ha lanciato un allarme utili, il titolo sta perdendo qualcosa come il 20%, e insomma abbiamo una raffica ancora di cattive notizie. Probabilmente ci dovremo abituare ancora a queste per ancora molti mesi. In tutto questo l'OPEC ha tagliato la produzione di greggio di 1,5 milioni di barili al giorno e il greggio continua a scendere, è arrivato a Londra per esempio a $61 al barile. Buone notizie ne abbiamo? Sì, vi dico quella che ci piace di più. Abbiamo un nuovo ribasso per l'Euribor a 3 mesi al 4,91%. Lasciamo la borsa, continueremo ad aggiornarvi, andiamo invece alle questioni legate a Lehman Brothers. Allora, dopo il terremoto legato al dissesto della banca americana che ha coinvolto anche i risparmiatori italiani, è scattata l'ora del soccorso. Vi documentiamo spesso insomma su come sta procedendo questo soccorso che stanno attivando le compagnie italiane. A spingere l'intervento è stato lo stesso governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, che nei giorni scorsi ha invitato esplicitamente gli intermediari, banche, fondi ed altre società che hanno promosso il collocamento dei bond Lehman o che ne hanno curato la custodia, a non lasciare soli i risparmiatori italiani che hanno sottoscritto i titoli. Via Nazionale ha stabilito fra i 2 e i 4 miliardi la cifra di obbligazioni e strumenti Lehman in Italia. Ieri anche l'ISVAP, l'autorità di controllo del settore assicurativo, ha fornito le prime cifre ufficiali. Il presidente Giannini ha affermato che attivi Lehman sono presenti in vari prodotti, essenzialmente polizze index linked in misura variabile da prodotto a prodotto in funzione della costruzione finanziaria prescelta, per un importo di 1 miliardo 600 milioni di euro, pari all'1,4% delle riserve tecniche delle società assicurative. Le iniziative della settimana: Unipol, le BCC, le banche di credito cooperativo e Fondiaria Assai hanno rassicurato i propri clienti dichiarando che interverranno per coprire le perdite, ma al momento ad intervenire in maniera concreta è stata Mediolanum. La famiglia Doris con Fininvest, i 2 maggiori azionisti del gruppo bancario e assicurativo, hanno fatto sapere che si faranno carico di tasca loro delle perdite delle polizze Lehman con un onere previsto di 120 milioni di euro. Le ragioni e le modalità dell'iniziativa le ha spiegate il numero 1 del gruppo Ennio Doris. I clienti nostri con le Lehman, che sono 10.000 su 1.100.000, e anche il patrimonio di questi clienti coinvolti è appena il 15% mediamente di quello che loro hanno con noi. Ci siamo detti, dobbiamo fare qualche cosa a loro favore. Il costo di questa operazione è molto elevato, è di circa 120 milioni di euro e avrebbe gravato pesantemente sui conti dell'azienda e quindi anche sui piccoli azionisti, gli azionisti di minoranza. Col gruppo Fininvest ci siamo detti, noi possiamo permetterci di assumere sulle nostre spalle questo costo, anche se è piuttosto elevato, di 120 milioni. Togliamo i titoli Lehman dalle polizze e ci mettiamo dentro degli altri titoli obbligazionari emessi da Primaria Banca italiana in Italia e Primaria Banca spagnola in Spagna, in maniera tale che alla scadenza i clienti possano incassare quello che avevano investito, ma in maniera tale anche che prima della scadenza possano o per esempio chiedere un prestito o estinguere la polizza anticipatamente, perché il titolo sotto è un titolo oggi che non ha più i problemi di Lehman. Non è l'azienda che si fa carico del problema, ma gli azionisti di maggioranza, per cui l'azionista di Mediolanum, l'azionista di minoranza, beneficeranno del ritorno, naturalmente, che sarà molto positivo, di fiducia e di credibilità del gruppo, senza averne superato i costi, i cui costi invece sono tutti a carico solo degli azionisti di maggioranza. Anche l'ANIA, che è la società che dicevamo prima rappresenta le compagnie di assicurazione italiane, è intervenuta dichiarando attraverso il proprio direttore generale Giampaolo Galli che le assicurazioni italiane, coordinate dalla stessa associazione, sosterranno le azioni legali necessarie a tutelare i propri clienti rimasti coinvolti nell'insolvenza Lehman. Sentiamolo. Le diverse assicurazioni si stanno muovendo. Alcune si muovono con propri legali, altre si muoveranno con un unico, come dire, studio legale, ma questo è del tutto secondario. Il punto è che tutte le compagnie cercheranno di recuperare, faranno di tutto per recuperare il credito nei confronti di Lehman, e che questa attività sarà un'attività coordinata, perché il coordinamento consente di fare meglio in una situazione che, come ha spiegato il governatore Draghi, è una situazione estremamente complessa dal punto di vista anche solo delle articolazioni societarie di Lehman in molti paesi del mondo. Il punto è che il sistema assicurativo non lascia lascia soli i propri clienti, gli acquirenti dell'index con sottostante Lehman, e quindi si fa carico di fare ogni azione che è necessaria per il recupero dei crediti. Diciamo, noi diamo agli assicurati, come ha chiesto Draghi, tutta l'informazione utile nel corso di questi procedimenti giudiziari. Allora, Alessandro Pedone, io ho parlato tanto, adesso lascio naturalmente anche la parola a lei, ma soprattutto poi la lascio ai nostri ascoltatori che ci stanno già chiamando numerosissimi all'800 24 00 24. Partiamo con queste iniziative del mondo assicurativo per tutelare e salvaguardare gli investimenti dei risparmiatori italiani che hanno in portafoglio polizze, per adesso a queste ci atteniamo, indicizzate a Lehman Brothers. Insomma, come valuta questa campagna, chiamiamola così, dell'ANIA e l'iniziativa del gruppo Mediolanum? Dunque, per quanto riguarda la campagna dell'ANIA, mi sembra veramente il minimo che una compagnia assicurativa che ha uno strumento che è andato in default compia tutte le azioni legali necessarie per massimizzare il recupero da questo default. Mi sembra una cosa che, come dire, non sarebbe scandaloso se non fosse stato fatto, perché la comune diligenza vuole che un gestore di patrimoni faccia tutto il possibile per recuperare situazioni di questo tipo. Certamente non c'è da sperare, come dire, granché da questo tipo di iniziative. È un po', mi sembrano, le iniziative che l'ABI prendeva al tempo della crisi dell'Argentina, per cui si fa la task force argentina e si fa la causa all'Argentina. Insomma, sono iniziative che mi sembrano più da annoverare sul fronte del marketing che non sul fronte di un'effettiva. Perché le valuta così, Pedone? Voglio dire, adesso a parte tutto, a me non è che interessa difenderli, ma da quello che ho capito sul funzionamento della dinamica del come dire, salvagente lanciato da Mediolanum ai sottoscrittori di polizze indicizzate a Lehman, comunque il gruppo si farà carico a scadenza dei prodotti, anche se con modalità non di rimborso diretto, nel senso che praticamente si cambia il sottostante della polizza, invece di Lehman si sceglie probabilmente un'altra obbligazione bancaria. Non so bene appunto come funzionerà ancora esattamente, la dinamica non è stata chiarita. Perché non la convince? No, io prima stavo parlando sul problema dell'ANIA, cioè recuperare contro l'Argentina. Per quanto riguarda il discorso di Mediolanum, ben venga, è un'iniziativa che sicuramente fa piacere agli sfortunati sottoscrittori di queste index, ed è un'iniziativa anche questa da annoverare essenzialmente sul fronte del marketing, ma ben venga, cioè questa è un'iniziativa che valuto positivamente, così come ho valutato positivamente l'iniziativa sull'abbassamento degli spread fatta da Mediolanum in occasione di quando si parlava di negoziazioni, eccetera. Mediolanum è una compagnia bravissima in termini di comunicazione, sanno fare molto bene il loro vendere il loro prodotto. Il problema che coinvolge in particolare Mediolanum, perché è molto commerciale, molto aggressiva sulla vendita dei prodotti finanziari, ma è un problema generico dei prodotti finanziari dell'industria del risparmio gestito, e che è un'industria che anno dopo anno dimostra e documenta il fatto che purtroppo distrugge il risparmio degli italiani. Queste index, oggi parliamo di queste index, ma sono un po' l'emblema di prodotti che sono assolutamente inutilmente complessi e inutilmente costosi. La complessità genera questo problema, che quando c'è un problema sottostante non si riesce nemmeno a capire che cosa si è sottoscritto, ma anche quando tutto fila liscio, come nella maggior parte dei casi, il prodotto in sé è un prodotto inutilmente costoso che quindi distrugge il risparmio. E quindi, come dire, ok, questa iniziativa, quando c'è un problema di questo tipo, ben venga che Mediolanum che i soci di maggioranza di Mediolanum ci mettono i soldi di tasca propria, benissimo. Ciò che non vorrei è che questa si trasformi, e come si trasformerà, in una mera iniziativa di marketing che poi coinvolga altri risparmiatori a sottoscrivere queste cose. Quindi io dico benissimo che Mediolanum lo faccia, ma al tempo stesso questo dico ai prossimi clienti di Mediolanum, come di tutte le altre aziende del risparmio gestito, ma in particolare Mediolanum, perché è molto aggressiva nella vendita di questi prodotti inutilmente complessi ed inutilmente costosi, attenzione a non risottoscrivere un'altra index, un'altra unit link ed un altro prodotto complesso che non capite, perché come dire, magari poi andrà tutto bene, speriamo veramente che nei prossimi anni non ci siano altri casi Lehman, altri casi dell'Islanda e altri casi del genere, ma anche quando andrà tutto liscio avete comunque sottoscritto un prodotto che ha distrutto una parte del vostro risparmio. Questo è il concetto. Ma voglio dire, si è visto anche nei numeri poi di quello che è successo negli ultimi 2 anni all'industria del risparmio gestito, e molto spesso abbiamo spiegato come effettivamente anche nel crollo della raccolta di fondi comuni di investimento ci sia stato dietro appunto questo massiccio dirottamento dei risparmiatori dal fondo alle polizze, e adesso scopriamo insomma che queste polizze hanno anche dei sottostanti che finiscono in bancarotta come Lehman Brothers, ma anche come le banche islandesi. Magari apriremo anche questo versante a Salvadanaio. Nel frattempo apriamo anche le porte ai nostri ascoltatori. Alberto da Lucca, benvenuto. Sì, salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Ci dica. Allora, niente, io sono un fortunato vincitore di obbligazioni Lehman, acquistate ad aprile 2008 su consiglio della banca, che praticamente, tengo a precisare, queste obbligazioni le paragonava come grado di rischio ad un bot. E quindi, niente, non volendo rischiare nulla, io ho acquistato queste obbligazioni che erano inserite nell'elenco patti chiari dalla scheda di rischio. Praticamente io le ho entrambe, un bot e un Lehman, sono praticamente paritetiche, e quindi ho aderito ad acquistare queste obbligazioni intendendo non rischiare niente. Oggi mi trovo praticamente con un pezzo di carta in mano, sento che l'ABI è intenzionata a tenerci la mano, non capisco bene l'emozione, Alberto. Insomma, no, guardi, allora le sgombero, come dire, l'emotività, nel senso che ho capito quello che lei intende, vuole sapere cosa fare, le ha acquistate aprile 2008. Io intanto le faccio sentire, visto che ancora ci rimane una manciata di secondi di tempo per poterlo fare, che cosa ha dichiarato il presidente dell'ABI, Corrado Faissola, qualche giorno fa ai nostri microfoni, al microfono della nostra Anna Marino. Ha detto proprio: l'ABI si attiverà per assistere i portatori diretti di prodotti Lehman. Sentiamolo. Abbiamo deciso che la nostra associazione si attiverà per assistere tutti i portatori di prodotti Lehman, direttamente portatori, quindi fondamentalmente obbligazioni Lehman, per assicurare loro il massimo di efficienza e di tempestività nell'insinuazione al passivo di questo gruppo che è in stato, direi, di liquidazione, ecco, e per assisterli poi eventualmente, se lo vorranno, anche nella fase successiva. È una cosa da farsi con grande urgenza, anche perché le procedure concorsuali non sono in un unico paese ma in più paesi, e quindi per ognuna ci sono modalità e formalità diverse. Insomma, la prima indicazione di Faissola è quella che comunque ci sarà una sorta, forse qui il paragone con la questione argentina è più calzante, pedone, un'assistenza di natura legale per l'insinuazione al passivo, visto che adesso la società è in liquidazione, bisognerà vedere quali asset rimangono da potersi poi spartire con i creditori molteplici che ci sono sul mercato. Eccoci di nuovo in diretta, stavamo affrontando questa mattina con Alessandro Pedone dell'ADU, come anche consulente finanziario indipendente, ancora le conseguenze per i risparmiatori italiani del crack Lehman Brothers in una giornata che per la borsa è di nuovo pesantissima. Vedo cali nell'ordine del 7-8%, un piccolissimo miglioramento, qualche piazza perdeva 9 punti percentuali fino a poco fa, ma insomma abbiamo una nuova giornata pesantissima per i mercati finanziari e naturalmente molta richiesta anche di chiarezza per i nostri amici che ci seguono da casa su che cosa fare se si ha in portafogli in questo momento o polizze index linked indicizzate, appunto, a titoli Lehman o direttamente obbligazioni. E su questo punto, Pedone, eravamo rimasti, abbiamo sentito tra virgolette gli auspici o comunque le garanzie che si è sentito di dare almeno fino a questo momento il presidente dell'ABI, Corrado Faissola, per chi detiene obbligazioni Lehman. Allora, che cosa si può ragionevolmente aspettare, almeno secondo quello che possiamo sapere fino a questo momento? Ma purtroppo qui la situazione è abbastanza imprevedibile, nel senso che bisognerà capire l'esito di questa Chapter 11, cioè la procedura, diciamo, di liquidazione della holding della Lehman e quindi ben venga anche qui tutta l'iniziativa dell'ABI, in questo senso anche qui è doverosa, ma ben venga, tecnicamente è assolutamente importante fare tutte queste procedure per ottenere poi il recupero da questa liquidazione. E per quanto riguarda il radioascoltatore che ci ha chiamato prima da Lucca, lì molto, molto francamente io non mi sentirei di gettare grandissime colpe a chi le ha consigliato di acquistare queste obbligazioni, nel senso che molto importante è capire che percentuale del patrimonio ha messo questo radioascoltatore, perché è ovvio che se avesse messo la quasi totalità del suo patrimonio in obbligazione Lehman, ma come obbligazioni di qualsiasi altra banca, sarebbe stato un errore tecnico, sia se l'obbligazione poi veniva rimborsata e sia se nel caso in cui appunto l'obbligazione è andata in default, perché non si deve, il principio di diversificazione è fondamentale. E quindi questo, diciamo, in quel caso, qualora gli fosse stato consigliato di investire il tutto in Lehman, sarebbe stato un errore, ma non per il titolo Lehman in sé, ma per la violazione di un principio fondamentale che è quello della diversificazione. Ecco, il timing dell'investimento, Pedone, perché il nostro ascoltatore Alberto dice di aver sottoscritto queste obbligazioni nell'aprile del 2008 e ci sono su questo punto diverse correnti di pensiero tra chi ritiene che all'epoca comunque già l'agitazione nel settore bancario c'era, la crisi era già abbastanza conclamata e quindi insomma già era forse il caso di cominciare a stare lontani dalle obbligazioni bancarie, però un default, una bancarotta di una grande banca di investimento americana era sicuramente una circostanza del tutto imprevedibile, del tutto non assolutamente nel pensiero di nessuno in quel momento. Però insomma aprile 2008 c'è invece, dicevo, due correnti di pensiero, chi ritiene che invece già Lehman qualche segnale di difficoltà lo avesse già lanciato. Lei che dice? Ma, da questo punto di vista, allora, a quell'epoca i segnali di difficoltà non erano tanto su Lehman quanto su tutto il settore bancario, quindi sicuramente un investimento a quell'epoca nel settore bancario era un investimento da fare in piccolissime proporzioni e magari per cercare di sfruttare un possibile rendimento aggiuntivo che all'epoca poteva sembrare ingiustificato. Ecco, ma che rendimenti offrivano le obbligazioni Lehman, tra l'altro? Ma nell'aprile eravamo sul 6-7%. Quindi insomma un extra rendimento che qualche piccolissimo campanello d'allarme forse ce lo doveva già. Diciamo nell'aprile era una cosa da fare, come dicevo, in piccolissime proporzioni, ritenendo che questo 6-7% fosse molto di più di quello che era giusto, poiché si riteneva sostanzialmente impossibile che un grande istituto di questo tipo venisse fatto fallire. Poi le cose sono andate in maniera completamente diversa, però ecco, io qui su questa cosa non mi sentirei di gettare la croce addosso a chi ha suggerito, al bancario che ha suggerito questa cosa, a meno che non l'abbia fatto ovviamente per fette molto importanti del patrimonio. Esatto, c'è la questione della vendita sistematica, no, da affrontare eventualmente, quindi se venisse appurata uno scarico di obbligazioni di questo tipo fra la clientela, allora forse lì il dolo da parte della banca sarebbe evidente. Sarebbe tutto un altro discorso, ma francamente mi sentirei di escluderlo. Voi sapete che io non sono mai tenero con le banche. No, infatti mi stavo anche un po' stupendo del tono che sta utilizzando adesso. Però non sono mai tenero con le banche in generale, però a me non piace neanche, come dire, fare sempre di tutto un'erba un fascio e dire le banche sono sempre assolutamente cattive, sono sempre quelle che vogliono fregare i clienti. In realtà nel caso Lehman molto spesso le banche un po' ci sono rimaste anche loro e loro stesse non si aspettavano una cosa del genere. E questo è anche il motivo per cui, per esempio, appunto Mediolanum ha deciso di sostenere i sottoscrittori di polizze index che hanno appunto investito anche indirettamente in questi titoli, proprio perché era una crisi per certi versi, una bancarotta del tutto imprevedibile ed imprevista. Le ho fatto la domanda sul timing dell'investimento, riferendoci ad Alberto Da Lucca, che ha comprato obbligazioni nell'aprile del 2008, perché invece c'è chi le ha comprate addirittura molto successivamente. Domenico da Bari, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Ho fatto una domanda. Ecco, io ho sottoscritto delle azioni Lehman a febbraio 2008. Febbraio 2008, mi scusi, non so perché avevo in mente agosto. Febbraio. Mi scusi, sì. Ecco, volevo sapere Damien, se ci sono delle possibilità concrete di sapere quanto e quando eventualmente ci sarà un certo rimborso parziale, totale, vista la situazione che si è venuta a creare. Insomma. Domenico, bisognerà vedere anche il se, non è solamente una domanda che si rifà al quanto o al quando, anche se ci sarà un rimborso, perché bisogna anche vedere che tipo di titolarità si ha di questo, di queste obbligazioni. Pedone, sentiamo tanto dire, bisogna vedere se tu sei un obbligazionista senior o subordinato, ci aiuta a capire questa differenza? Certo, soltanto che il nostro radioascoltatore mi sembrava di aver capito che avesse sottoscritto azioni, o ho sentito male io? Domenico. Obbligazioni. Sì, infatti. Okay. Febbraio 2008, quindi okay. Diciamo due mesi prima. La differenza fra le emissioni obbligazionarie delle banche sono emissioni che possono avere vari livelli di subordinazione, cioè o di privilegio nel momento in cui siamo di fronte ad una procedura come questa di liquidazione. Quindi i debiti possono avere vari gradi, diciamo, si è più in su o più in giù nella lista di quelli che devono recuperare in base alla tipologia di obbligazione. L'obbligazione senior è una dei livelli più alti, poi ci sono ovviamente per esempio le obbligazioni della procedura stessa che sono a un livello ancora più alto, ma sono di piccole cifre. Dal livello senior si possono scendere a livelli subordinati e ci sono vari gradi di subordinazione. Ci sono addirittura degli strumenti obbligazionari cosiddetti ibridi che sostanzialmente sono equiparabili a delle azioni e quindi queste presumibilmente non vedranno alcuna forma di rimborso. Per quanto riguarda le obbligazioni senior, cioè il massimo livello di rimborso, è ragionevole attendersi una percentuale di recupero. Io non mi voglio sbilanciare su 30, 60, 50, 10% perché oggettivamente non ho i numeri e non ho le conoscenze per poter dire effettivamente quanto sarà questo recupero. Ciò che è certo è che nel momento in cui è stato presentato il Chapter 11 al Tribunale, gli attivi erano estremamente consistenti. Il problema è che quegli attivi, quando si devono andare a recuperare, non si sa mai che percentuale effettiva di quegli attivi si recuperano, mentre i passivi in teoria andrebbero restituiti al 100%. Quindi insomma diciamo che è una situazione per la quale il nostro ascoltatore ancora qualche mese dovrà aspettare. Sicuramente diversi mesi dovrà aspettare per sapere effettivamente qual è la percentuale. In queste settimane ci sono state le aste dei CDS, ora non vorrei essere troppo tecnico. No, i credit default swap, esatto. Diciamo da queste aste l'indicazione non è estremamente positiva, nel senso che l'indicazione delle percentuali di recupero stimate, ma si tratta sempre assolutamente di stime, sono piuttosto basse, inferiori al 30%, però è tutto da vedere purtroppo. Allora, ero curiosa di sentire Pietro da Riccione che, se non ho capito male, ha ricevuto addirittura da parte della banca una proposta su obbligazioni Lehman, una proposta di conciliazione. Pietro, che cosa è successo? Ci spieghi, buongiorno. Ah sì, buongiorno a lei. Buongiorno a lei. No, la proposta è di questo tipo, che praticamente pare che emerga... Mi sente? La sento benissimo, Pietro. Ecco, ero proprio così, in religioso silenzio per ascoltare il suo caso. È un peccato, perché lei ha una voce molto accattivante. Vabbè, ma non voglio sovrastarla, ci dica. Senta, la proposta della banca che emerge praticamente è quella di dirmi che mi garantisse il 50% del capitale che era stato da me investito in obbligazioni Lehman Senior, mi garantisce il 50% e sino alla scadenza naturale mi darebbe un interesse netto, solamente per quelle, del 6%. Pietro, lei mi deve togliere la curiosità, qual è la banca che le ha fatto questa proposta? Siccome pare che sia una cosa un po' riservata, ecco. Mi hanno detto così. Vabbè, insomma, evidentemente è un buon cliente, Pietro. Pedone! Non mi allora, pare proprio una cosa da buttare. Mi incuriosisce tantissimo. Poi chiamo Pietro e me la faccio raccontare. Purtroppo ho una certa esperienza nei rapporti con le banche e ho così come maturato il dubbio che non siano degli enti di beneficenza. Quindi se c'è una situazione del genere io inviterei, se vuole, e il radioascoltatore può anche direttamente poi contattarci in privato e analizzare esattamente il caso. Il mio dubbio è che ci sia qualche magagna della banca, ad esempio non ha firmato il modulo d'ordine, o diciamo ci sia qualche elemento formale per cui la per banca cui magari Pietro avrebbe il 50% perché teme ragionevolmente di dover dare il 100%. Di un'azione, magari, che ne so, magari Pietro potrebbe avere i presupposti per poter in futuro pensare di avviare un'azione legale, per cui dice insomma evitiamo di fargli solo pensare a questa possibilità e quindi veniamogli incontro. Pietro, comunque lei, che ce l'abbiamo ancora in linea, Filippo. Pietro, lei insomma è tentato dall'accettare oppure... No, io ha detto vorrebbe... benissimo il dottor Pedone, sì. Perché io lo penso esattamente come lui, perché siccome non sono un istituto di beneficenza, dicono se mi offrono 50 mi allettano, ma cosa c'è dietro l'angolo? Mi chiedo se lei è quanto lei sia un buon cliente, Pietro, adesso non per sapere i fatti suoi, ma magari, che ne so, ha diversi rapporti commerciali con questa banca. Parliamo di qualche decina di migliaia di euro in obbligazioni, mica niente di particolare. Eh no, però insomma, va bene Pietro, guardi, io lo sa, sì che la chiamo in privato, poi mi racconta bene esattamente che cosa c'è nel dettaglio di questa proposta, perché siamo molto curiosi. Titoli Lehman, chiamiamoli come volete, oggi oggetto del nostro approfondimento a Salvadanaio con Alessandro Pedone dell'Associazione dei Consumatori Aduc, ma anche consigliere finanziario. Ad è con questo consigliere oggi, consulente, non so perché Alessandro mi venga di dire così. In ogni caso stiamo cercando di capire cosa fare in questo momento con i titoli Lehman che molti italiani hanno in portafoglio, sia sotto forma di obbligazioni dirette che sotto forma di polizze vita indicizzate appunto a titoli Lehman. Ero molto curiosa di sentire anche Mariangela da Asti, perché so che tra l'altro poi tiro un po' di acqua al mulino di Alessandro Pedone, che ci potrà aiutare a capire anche come fare a capire se abbiamo in portafogli i titoli Lehman, se ancora non lo abbiamo scoperto. Mariangela da Asti, benvenuta. Ah, buongiorno, vi ringrazio prima di tutto del lavoro che state facendo tutti i giorni per noi. Grazie. Allora, mio marito, il problema è questo: mio marito aveva sottoscritto nel 2002 una polizza piano pensionistico Bayerisch, diventata poi Ergo Previdenza, sì. Piano individuale pensionistico, fondo pensione, eccetera, della durata praticamente di 17 anni dal 2002, quindi ci sono ancora 9 anni. Io non so in portafoglio questi signori se hanno Lehman Brothers o che altro hanno. Come faccio a sapere questo? Io non ho mai ricevuto una composizione del portafoglio di Bayerisch prima e Ergo Previdenza. Mi chiedo, Mariangela, ma lei ce l'ha un consulente, un agente assicurativo che le ha venduto questo prodotto? Comunque le persone sono scomparse, non credo. Ma le persone non sono scomparse, hanno un recapito a Torino e io non ha provato per esempio a fare una telefonata a loro direttamente? Ma ho telefonato, praticamente rispondono persone che lavorano a centralini, numeri verdi eccetera, e mi dicono faccio una lettera eccetera. Sì, certo. Adesso la farò e chiederò com'è la composizione di questo portafoglio. Certo, però, un prospetto non è niente, quindi a cui poter attingere informazioni, un prospetto informativo, il contratto originario per esempio. Dunque l'anno scorso c'era questo rendimento del 4,17%, però non c'è una composizione dettagliata del portafoglio. Cioè l'ANIA in questo caso non ci tutela? No, beh qui sa, se è un fondo pensione, qui abbiamo anche la Covip che dovrebbe a maggior ragione chiedere chiarimenti alle società che gestiscono questi prodotti. Alessandro Pedone. Sì, allora, premesso che ovviamente bisognerebbe capire esattamente il prodotto com'è, perché spesso i nomi commerciali non dicono moltissimo. In linea di massima direi che non si tratta di un prodotto che abbia come sottostante Lehman, perché molto presumibilmente è un PIP, cioè un piano individuale di previdenza fatto nel 2002, quindi diciamo gli investimenti sono... dovrebbero essere molto diversificati, quindi in vari titoli. Questo è quindi mi sentirei in parte di rassicurare questa radioascoltatrice, nel senso che non è direttamente coinvolta nel problema Lehman, però è l'esatto esempio di quello che dicevo prima, cioè noi siamo concentrati giustissimamente su Lehman perché è il problema di attualità, ma questo è l'esatto esempio di un prodotto da non sottoscrivere. Mi assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo, perché so che si sta sta parlando di un prodotto commerciale specifico, ma è il classico prodotto inutilmente costoso che non provocherà il danno della perdita complessiva del capitale, ma purtroppo provocherà un bel danno di perdita in valore di acquisto, perché questi prodotti, questi PIP, in modo particolare di Bayerische e Mediolanum erano le due compagnie nel 2002 più aggressive nella vendita di questi prodotti, che poi fortunatamente sono stati anche un pochino meglio regolamentati e la situazione è leggermente migliore, ma sono sempre prodotti assolutamente da escludere, molto spesso venduti attraverso delle reti di multilevel marketing, per cui succede che l'investitore si trova a telefonare a un call center, a delle persone che gli dicono ma mi invio una lettera e vedremo, perché in realtà non c'è neanche un minimo di consulenza, anche perché se ci fosse un minimo di consulenza questo prodotto non andrebbe, guardi, non si potrebbe vendere. A parte il fatto che lei ovviamente ha detto mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma io comunque faccio difendere anche la categoria da quello che lei dice. Davide da Padova, insomma, ma con che modi vendete le polizze index? Buongiorno, un agente assicurativo se non sbaglio. Sì, buongiorno. Ci dica. Ecco, allora, noi quando vendiamo le polizze cerchiamo anche di fare della consulenza. Dopo, ovviamente, ci sono anche della nostra categoria, quelli bravi e quelli non bravi. Per cui, e quelli che vogliono monetizzare, ecco, a fine mese, naturalmente, Davide, certo. Davide? Mi sono cercato di chiamare. Purtroppo non riusciamo a sentirla bene. In ogni caso, guardi, sintetizzo io perché stiamo finendo la trasmissione. Il nostro ascoltatore dice: io ho venduto delle polizze index con dei rating molto elevati e praticamente da parte mia c'è sempre stata assolutamente la totale buona fede anche nell'approccio nei confronti del cliente. Ma noi non abbiamo nessun dubbio, Davide, ci mancherebbe altro. Come giustamente diceva prima anche Alessandro Pedone, non si può mai fare di tutta l'erba un fascio. Certo è che questa situazione ancora una volta mette a nudo anche le carenze della consulenza nel nostro paese. Allora io devo mandare in onda un'ultima cosa, poi saluto Alessandro Pedone, è ancora in edicola con il Sole 24 Ore, anche se si è già esaurita la prima stampa, sta già andando in ristampa, la grande crisi, l'instant book del Sole 24 Ore, la grande crisi, domande e risposte per spiegare cause e conseguenze dell'attuale shock finanziario, e noi continuiamo a proporvi le pillole contenenti le parole chiave per definire questa crisi. Oggi ovviamente abbiamo scelto la parola obbligazione. Obbligazione, titolo di debito emesso da una società detta emittente. Conferisce all'investitore, il cosiddetto obbligazionista, il diritto a ricevere, alle scadenze predefinite, il rimborso del capitale sottoscritto e un interesse, chiamato cedola. Il soggetto emittente può essere uno Stato o un altro ente pubblico, un organismo sovranazionale, una banca o una società di altro genere. Se si tratta di un organismo privato, l'obbligazione è detta anche corporate bond. L'obbligazione rappresenta un debito. Esistono obbligazioni che attribuiscono al possessore il diritto di convertirle, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società. Per molte obbligazioni esiste un mercato secondario sul quale sono negoziate. Obbligazione bancaria. Titolo di debito che impegna la banca emittente al rimborso del capitale, oltre che alla corresponsione degli interessi, di ammontare fisso o variabile nell'arco della durata prestabilita. Le norme prescrivono che la durata media di un'obbligazione bancaria non possa essere inferiore a 24 mesi. L'eventuale rimborso anticipato non può avvenire prima di 18 mesi e deve essere esplicitamente previsto dal regolamento di emissione. Noi dobbiamo salutarci qua, grazie ad Alessandro Pedone, tanto lo sa bene che la richiamiamo di frequente, la richiameremo nuovamente presto, non appena soprattutto magari si definiranno i contorni del destino degli obbligazionisti Lehman Brothers. Per chi ha polizze vita indicizzata, questi prodotti, bene o male, abbiamo già capito qual è l'orientamento delle compagnie di assicurazione. Per i portatori diretti di obbligazioni la faccenda è ancora un po' nebulosa. Noi torniamo naturalmente a Salvadanaio lunedì, per quello che mi riguarda ci sentiamo anche stasera a Focus Economia. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. We'll be right back.